la 122esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free nella sua versione, stavolta extra small, del giovedì mattina. Domani e dopodomani, quindi giorni 1 e 2 novembre 2013, si terrà alla Casa del Popolo di Settignano un evento molto speciale, al quale teniamo molto. Il titolo è International Vegan Day 2013, una due giorni di cultura e buona cucina per costruire assieme una società cruelty free, organizzato da Progetto Vivere Vegan Onlus, la redazione di Restiamo Animali e la Casa del Popolo di Settignano. Per raccontarvi il senso di questo evento abbiamo raggiunto Dora Grieco, fondatrice dell'associazione Progetto Vivere Vegan Onlus, che probabilmente conoscete perché si tratta dell'associazione storica fiorentina vegana che anno dopo anno propone con crescente successo di pubblico la sagra del seitan. Il senso è intanto per festeggiare e commemorare, diciamo, la nascita della prima associazione vegan nel mondo, la Vegan Society, che appunto è stata fondata nel primo novembre del 1944, e questa data è diventata un po' un appuntamento per tutti i vegani, sia per ritrovarsi e festeggiare un qualcosa in cui credono, quindi in uno stile di vita cruelty free che non danneggia nessun essere vivente, né animali, umani e tantomeno animali non umani, e poi diventa anche un momento comunque per informare le persone, quindi non è solo una festa di noi vegani, ma è soprattutto un appuntamento per informare chi ancora è lontano da questa filosofia di vita. A me il compito di dare tutti i dettagli. Si parte venerdì 1 novembre dalle 14.30 alle ore 24, proiezioni non stop per adulti e bambini. Tutto gratuito a cura di Restiamo Animali e Cinema Anemico. Si inizia alle 14.30 con Making the Connection, una produzione della Environment Film e The Vegan Society, che dura 31 minuti. Alle 15.11 The Cove, un film che parla della strage annuale di delfini nella baia di Taiji in Giappone. Alle 16.50 un film, Project Nim, di James Marsh del 2010, che parla della storia di un primate che ha convissuto a lungo con gli uomini in quanto utilizzato per delle sperimentazioni di tipo educativo. Alle 18.33 La Mirada Circular, un corto del 2010 spagnolo. Alle 18.55 un altro corto, A Galinha Que Burlou o Sistema, brasiliano. Alle 19.20 il film Freaks di Todd Browning del 1932, un grande film molto particolare che consiglio vivamente di venire a vedere. Alle 21 ci sarà La vita emotiva degli animali da fattoria, un film documentario il cui interprete principale è l'autore del libro omonimo Vita emotiva degli animali da fattoria, un libro bellissimo che abbiamo recensito e che consigliamo a tutti. E alle 22.30 il clou è il film Bold Native di Hennis Hennelly del 2010, statunitense. La storia di un ragazzo che non fa del male a nessuno, che semplicemente si impegna a liberare animali anonimamente negli Stati Uniti e che viene accusato di terrorismo dall'FBI. Film importante e particolarmente toccante, direi imperdibile. Lo stesso giorno, nel pomeriggio, ci saranno delle proiezioni dedicate ai bambini in una saletta piccola al primo piano. Alle 14.30 Gallina in fuga, alle 16 Babe, Maialino coraggioso, e alle 17.45 Microcosmos, Il popolo dell'erba. Tutti questi film ovviamente sono ottimi anche per adulti. Durante entrambe le giornate il bar della Casa del Popolo di Settignano servirà specialità dolci e salate vegane, per cui tutte le persone che seguono un'alimentazione cruelty free durante le ore di cinema e di teatro potranno comunque fare merenda al bar e non dovranno portarsi da mangiare da casa. Mentre nella sala grande di Settignano si succederanno le proiezioni, a cena alle ore 20 ci sarà la grande cena Vegan Street Food. Lo chef ideatore della cena è Gabriele Palloni, nostro collaboratore alla trasmissione Restiamo Animali, in particolare curatore della rubrica Il Pasto Gentile in questo periodo. La cena consentirà di stare seduti, ma consentirà anche a chi lo vuole di spostarsi al piano di sopra continuando a vedere le proiezioni che si succedono. Un'occhiata al menù: arancini di riso, tortino alla catalana, pasta al pesto di cavolo nero, noci e briciole, spiedini con polpette di legumi e cereali con carote in dolce e forte e cupcake all'arancio con salsa fondente. Il costo è 12 euro. Per prenotare scrivete a restiamoanimali@gmail.com. Sabato 2 novembre invece la serata comincia alle ore 20 con la cena, una cena turca vegan, una cosa molto originale. La chef è Karaman Kuzu, la cena si intitola Hayvanlar, che significa animali, e il menù consiste in una fantasia di cose turche: polpette di lenticchie e bulgur, rape rosse con yogurt, sedano rapo con maionese e noci, involtini di fillo con spinaci e tofu. Il piatto forte è il seitan e le verdure con cumino e peperoncino, risotto con spezie turche, pinoli e uvetta. Come dolce avremo un budino di riso con cannella, pistacchi e cialda. Il costo è 15 euro. Prenotazioni su info@viverevegan.org. E alle 22 la serata continua con lo spettacolo teatrale Noi abbiamo un sogno, testimonianze, immagini e parole dalla parte degli animali, letture d'autore a cura di Progetto Vivere Vegan, che è già stato presentato nella scorsa edizione della Sagra del Seitan, ma stavolta si ripropone con una regia completamente diversa, quindi rappresenterà una novità anche per chi l'ha già visto. L'appuntamento è a partire dalle 14:30 di domani alla Casa del Popolo di Settignano in via San Romano 1 a Firenze. Tutti i dettagli nel sito internet viverevegan.org e restiamoanimali.wordpress.com.